Appello. Ademo Elisabetta. Presente. Bozzini Emanuela. Presente. Calderon Clelia e Leo. Presente. De Angelis Marco. Presente. Obbligo di frequenza. Di Maria Piera Ceci. 31 ottobre 2002, San Giuliano di Puglia. Una scuola si accartoccia su se stessa. 28 i morti, 27 bambini e una maestra. Così racconta un papà. Ho visto l'intero tetto, integro. Il tetto integro. Senza nessuna sbavatura, nessun piegamento, nulla. Il tetto era integro, schiacciando i muri che secondo noi è stata la causa della tragedia. 6 aprile 2009, L'Aquila, ad accartocciarsi su se stessa è la casa dello studente. 9 i morti, 8 studenti e un impiegato. Così racconta il nostro inviato Mariano Maugeri. I campus italici nelle palazzine sbilenche degli anni 60, si risparmia sul cemento, sui tondini, sugli intonaci. Angela studia ingegneria, l'israeliano Michelone Hussein medicina. Si può morire dopo aver riposto negli scaffali manuali di analisi matematica e patologia medica. In Italia sì. L'Aquila come San Giuliano di Puglia. In Italia si può morire mentre si copia dalla lavagna una frase per l'analisi logica, mentre si tira fuori dalla cartella la merenda, dopo aver riposto i manuali di anatomia negli scaffali. Una tragedia nella tragedia, quella della casa dello studente dell'Aquila. Anzi, il simbolo della tragedia abruzzese. Luca, di Rieti, studiava ingegneria, aveva 20 anni, una moglie e una bimba di 7 mesi. Luca, l'ultimo ad essere stato tirato fuori dalle macerie di un edificio dove non ci sono più stanze, muri, scrivanie, dove vivevano alcuni dei 13.000 universitari fuori sede, cuore e motore economico della città. Restano sotto le macerie 8 studenti. Studenti come questo, intervistato dal nostro inviato Vincenzo Miglietta. Siamo davanti alla casa dello studente, la tragedia è immane, si vede, manca praticamente un palazzo. Sì. Tu sei un testimone oculare di quanto è successo l'altra notte praticamente. Sì, sì, ho visto tutto e ho notato molta agitazione dai cittadini, bambini soprattutto, ma i studenti che uscivano da qui proprio preoccupati, poi i balconi che crollavano davanti agli occhi. Ecco, che hai sentito lì alle 3.30 di notte? Oddio, intanto mi sono svegliato di sobbalzo e ho visto tremare la cameretta con le macerie che mi cadevano in testa. Fortunatamente sono sceso in tempo, io e una ragazza, e uscendo per strada le urla, le grida, allarmi che suonavano. Poi l'odore di gas, le tubature dell'acqua che spruzzavano acqua dappertutto e niente. La casa dello studente non c'era più? Una parte, questa parte qui che manca, non c'era, era già caduta. La priorità adesso sono le vittime, sì. Ma sul fronte dello studio, adesso è una tabula rasa, si riparte da zero? Ma speriamo di no, perché altrimenti il lavoro fatto sarà tutto perso. Anche se dovremmo cominciare tardi, speriamo di ricominciare da dove avevamo lasciato. Il rettore dell'Università dell'Aquila, Fernando Diorio, che da domenica notte è anche senza casa, fa la spola incessante fra le varie sedi delle facoltà per vedere quel che ne resta. Davvero ben poco. Il rettorato è come imploso, medicina è praticamente inservibile, ma lui vuole dare un segnale ai ragazzi che si va avanti. Il 15 confermato il consiglio d'Ateneo, all'aperto. Sentiamolo allora, il rettore Diorio, al microfono del nostro inviato Vincenzo Miglietta. Rettore, siamo ad un tragico bilancio per quanto riguarda la casa dello studente, tutti si domandano com'è possibile che questo palazzo sia caduto giù. E mi unisco anch'io a queste domande. Noi abbiamo perso molte strutture universitarie in questa città, a partire dal rettorato, dalla sede del Dipartimento di Storia, da una grande parte di tutte le strutture di carattere umanistico che stanno al centro storico. Ma erano tutti i palazzi del 1500, 1600. Questo è un palazzo che ha 40 anni di vita, 45 anni di vita, quindi io ritengo che dovrebbe essere stato realizzato secondo tecniche che dovevano impedire questa tragedia che si è verificata. Questo ce lo diranno le inchieste, ce lo diranno quello che verrà dopo. Io intanto piango la vita di studenti, ragazzi che hanno perso la vita magari mentre scherzavano, mentre facevano attività, niente. Cioè morire così è molto brutto. Di cui ci diceva una ragazza, la conosceva direttamente? Una ragazza non la conoscevo, ma mi hanno detto la mia studentessa di medicina, una ragazza molto brava, aquilana, gli altri non li conoscevo. Sì, sono perdite irreparabili. Io quando penso a tutti i palazzi dell'Aquila, penso a tutto ciò che abbiamo perso in 20 secondi, pensare che 20 secondi hanno spazzato queste cose è impressionante. Però la cosa più impressionante sono le vite di questi giovani. Che futuro vede per l'attività universitaria? Ma prevedo un periodo molto difficile, perché lei deve sapere che io ho 27.000 studenti, 13.000 sono fuori sede, e con una realtà come questa adesso è diventata città dell'Aquila, senza praticamente case nel centro storico, non so dove poterli alloggiare. La casa dello studente in queste condizioni, io sto lavorando già per chiedere posti letto, strutture di alloggio per i miei studenti. Io credo che siano importanti, mi auguro che le istituzioni collaborino a questo sforzo, io glielo chiedo fortemente. E le istituzioni hanno risposto, in arrivo infatti 110 milioni di euro, parte destinati proprio alla Casa dello Studente, a dirlo il ministro Gelmini, che giovedì è stata all'Aquila. Questo è un po' il simbolo di una tragedia, e con il presidente Berlusconi abbiamo però trovato 16 milioni di euro che serviranno per ricostruire la Casa dello Studente. Qui, ha detto ancora la Gelmini, venivano ospitati i ragazzi più meritevoli e con il reddito più basso, virtù che non sono servite ad evitare di finire sotto le macerie. E poi qualche idea per riportare subito tutti i ragazzi allo studio. Ogni ateneo, ha proposto la Gelmini, potrebbe adottare una facoltà dell'Aquila. E per i ragazzi dalle elementari alle superiori si sta pensando a tenso strutture per far riprendere il lavoro sotto le tende, oppure a sistemarli nelle scuole vicine, quindi non danneggiate, con doppi e tripli turni, anche d'estate se serve. L'anno scolastico in corso comunque è salvo, anche se i giorni di lezione saranno inevitabilmente alla fine meno dei 200 dovuti. Gli scrutini si faranno sulla base dei voti fermi al 6 aprile. Gli studenti che devono sostenere l'esame di Stato potranno completare il programma e ripassare su internet. Tutte le scuole infatti al momento sono chiuse, come ci spiega Benedetto Di Pietro, assessore scuola e formazione della provincia dell'Aquila. Al momento diciamo sono tutti inagibili, con danni di diversa entità. Alcuni potrebbero essere recuperati abbastanza rapidamente con interventi, perché è un problema soltanto di tamponature che sono saltate, ma le strutture sono rimaste integre. Il problema è diverso e diciamo molto più grave per gli edifici storici, quindi quelli che stavano nel centro storico vincolati e quindi con una età abbastanza avanzata. E quelli sarà più difficile recuperarli? Sì, bisognerà vedere, fare una, se c'è la possibilità di recuperarli. Ecco, che mi dice invece delle scuole fuori l'Aquila? Perché non so se lei si riferisse in questo caso alla città, diciamo, dell'Aquila. Noi abbiamo qui 12 istituti scolastici sulla città dell'Aquila, le scuole superiori esclusivamente di nostra competenza, abbiamo poi altre che diciamo non sono state interessate, quindi Avezzano, stiamo verificando la situazione a Prato La Peligna e a Sulmona, e dove sono anche lì presenti degli istituti superiori. È una cosa che faremo in questi giorni. Nel frattempo le scuole sono state chiuse su tutta la regione fino al 12 di aprile, quindi da qui a qualche giorno avremo proprio la contezza della situazione e potremo organizzare poi i relativi interventi. Ecco, al di là degli interventi strutturali su quegli edifici che potranno essere recuperati e che quindi consentiranno un rientro a scuola in quella scuola, per tutti gli altri che si fa? Certo, è una cosa che dovremo valutare chiaramente d'intesa con l'ufficio scolastico regionale, perché qui è un problema che riguarda gli istituti superiori, ma anche le medie inferiori, le scuole comunali, insomma riguarda tutte le scuole di ogni ordine e grado. Cominciano ad arrivare anche da questa mattina delle offerte, diciamo delle forme di solidarietà abbastanza concrete anche da altre province che si offrono di ospitare i nostri studenti, quelli che debbono fare gli esami di maturità, per ospitarli presso le loro città e consentirgli di fare gli esami. Di proseguire, questa è una cosa che chiaramente dovremo valutare, poi insomma con gli studenti, con i presidi, con gli insegnanti, è una cosa che comunque si sta mettendo in atto. È chiaro che adesso noi ci troviamo in una situazione di totale emergenza, cosa tragica, con i cronici. Però il ritorno a scuola è anche un po' un ritorno, no, alla normalità, sì, è un modo normalità, anche per i ragazzi, per dire va tutto bene, tutto sommato. Certo, è da auspicare, chiaramente deve essere fatto in condizioni di massima sicurezza, quindi le prossime ore, i prossimi giorni serviranno proprio a verificare lo stato delle cose. Noi appunto abbiamo già fatto una sopralluoghi sommari, perché in alcuni edifici non siamo nemmeno riusciti ad entrare, e quindi però da domani diciamo entreremo e verificheremo nel dettaglio la situazione, avremo un quadro esatto che poi faremo conoscere alla popolazione. Avete pensato ad allestire qualcosa di provvisorio nei campi dove ci sono gli sfollati? No, ancora. Lo affronteremo insieme con il comune, con gli altri comuni, con l'ufficio scolastico regionale, insomma la protezione civile, insomma, quindi vedremo di, se è possibile anche l'allestimento di eventuali campi provvisori. Nei luoghi, sì, provvisori nei luoghi di raccolta, vediamo un po' come organizzare. Certamente, l'ultima cosa, esisteva un monitoraggio degli istituti scolastici sulla loro sicurezza, come erano messi? Perché il danno ovviamente è stato grosso. Certo, no, la situazione era, noi abbiamo fatto una verifica quando, dunque l'ultima scossa, quella rilevante, credo che sia stata il 30 di marzo, le scuole sono state chiuse 2 giorni per un'ordinanza del sindaco Cialente e noi abbiamo provveduto a fare una ricognizione su tutti gli edifici di nostra competenza, cioè sulle scuole superiori, quindi il settore dell'edilizia scolastica ha provveduto poi a stilare un rapporto in cui individua per ogni edificio, diciamo, rilevava lo stato di condizione e non si è rilevato nulla di anormale o di preoccupante, quindi avevamo intorno credo il 30 marzo, 1 aprile o 2 aprile, insomma ecco la data era quella, ci fu una scossa che diciamo impose la chiusura delle scuole, per 2 giorni approfittammo di quei 2 giorni per fare un sopralluogo su tutti gli edifici scolastici della città dell'Aquila e non, i tecnici non rilevarono nulla di anormale. È tutto, ci risentiamo sabato prossimo come sempre alle 12.45.